La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo giovedì 5 marzo 2015. Come sapete è stata una giornata movimentata qui al Sole 24 Ore a Milano. Dai questi studi stiamo trasmettendo in diretta perché insomma per alcune ore si è stati per strada per questo allarme bomba, per fortuna rientrato e nulla di fatto. Oggi parliamo del provvedimento, anzi delle linee guida emerse a proposito di banda larga, di banda anzi ultra larga oltre i 100 megabit al secondo, che il Consiglio dei Ministri ha esaminato venerdì scorso. Parleremo del giallo che c'è stato, anzi perdonatemi, lunedì scorso, perdonatemi, del giallo che c'è stato perché nel fine settimana molti di voi avranno visto sui giornali emergere testi di un decreto legge che poi non c'è stato, e poi come per la scuola il governo ha approvato delle linee guida di un provvedimento che adesso dovrà andare in Parlamento. Quindi a seconda di che cosa ci abbiate capito e come la pensiate, chiamateci all'800 24 00 24, gli sms come al solito 349 238 6666. Io mi limito a dire che ero tra coloro, avendo avuto come molti altri colleghi venerdì sera, chi sabato mattina, una bozza di quel decreto legge, avevo fatto un salto sulla sedia perché era un decreto legge che a mio giudizio si esponeva a impugnative addirittura alla Corte Europea, nel senso che era così limitativo della libertà delle imprese di telecomunicazioni e televisivi, ma soprattutto di quelle telecomunicazioni, ognuna della quale in Italia ha un pezzo di propria rete di cui continua ad avere il controllo e a cui è appesa una parte notevole del proprio margine, del proprio EBIT, a cominciare da Telecom Italia naturalmente. E quel testo prevedeva degli interventi così a gamba tesa per un'architettura di rete convergente, addirittura attribuendo al governo la facoltà di determinare gli investimenti anno per anno degli operatori privati, che mi sembrava molto molto non discutibile, ma assolutamente incredulo ero di fronte al fatto che si approvasse un simile decreto legge. E in effetti poi il decreto legge non c'è stato. Ci sono delle linee guida che partono da ciò che sappiamo, cioè dal fatto che siamo molto in basso, in bassissimo, diciamo così, nelle graduatorie europee per ampiezza di banda e penetrazione nel nostro paese. Non solo perché manca la domanda, che è un fattore che sempre le imprese di settore sottolineano, come dire, non ci spingete a fare chissà quanti investimenti perché manca la domanda, non solo per le caratteristiche orogeografiche del nostro paese che ovviamente implicano maggiori difficoltà per una copertura a terra fino alle case in alcune parti d'Italia, non proprio secondarie dal punto di vista percentuale della nostra superficie, e comunque siamo in basso come percentuale di utenti internet, siamo in basso come media della velocità del collegamento, siamo in basso per simmetria tra download e upload, e naturalmente questo secondo fattore conta moltissimo perché le imprese possono avere davvero una ampiezza di banda tale da poter utilizzare internet per la vera e propria rivoluzione nella propria filiera di clienti e fornitori, cioè per innalzare la produttività, per cambiare il loro modo di lavorare, come si dice sempre, ce ne riempiamo la bocca da anni, in maniera digitale, però devi avere un'ampiezza di banda che te lo consenta. Allora, in tutto questo, nelle linee guida, che io vi sintetizzo veramente in maniera brevissima e perché ci sarebbe molto da parlare, ma preferisco che lo facciano gli ospiti che sono più competenti di me, il governo parte dal presupposto di avere più o meno 6 miliardi e qualche cosa di fondi europei da devolvere a questo fine nei prossimi anni, in un breve volgere di tempo. Naturalmente sono soprattutto nelle aree obiettivo 1, quindi sarà soprattutto nel sud, e scadenza quindi a seconda di quanti miliardi privati questi 6 miliardi e rotti di fondi pubblici europei riusciranno a mobilitare, delle scadenze temporali nel quale innalzare le percentuali di offerta sia diciamo dei 30 megabit secondo, che non sono la banda ultralarga, sia dell'obiettivo che diventa il numero uno, cioè quello della banda ultralarga, cioè l'obiettivo dei 100 mega. Il paese viene diviso in cluster, in sotto aree, ognuna delle quali ha una particolarità, sia per domanda stimata più elevata, sia per complicazioni, diciamo così, dal punto di vista del territorio. Il sottinteso è che, a differenza di quanto capitava con il decreto legge, con questo progetto le diverse imprese, Telecom Italia, Vodafone e via via, Windac, 3G e così via, e riguarda naturalmente anche le imprese televisive e le loro torri, avranno un incentivo alla convergenza per un'architettura di rete con investimenti più elevati di quanto avrebbero fatto ognuno per i fatti propri, e con una prospettiva, con un punto interrogativo sulla convergenza di questa architettura di rete. Sapete che c'è un dibattito che va avanti da 15 anni nel nostro paese su l'ammortamento oramai già realizzato della rete Cold Opinion Rame, di cui l'ex monopolista pubblico Telecom Italia è la sua forza. Sapete che sul rame, per quanto abbiamo tecnologie che hanno fatto miracoli per comprimere i segnali e farli passare sul rame, non si fanno i 100 mega. Dall'altra parte le tecnologie però hanno consentito in questi anni di far passare per il rame, attraverso dei marchi ingegni, per così dire, di compressione del segnale, fino a 30 mega ci si arriva e anche oltre. C'è un problema però per la condivisione, poi più sono gli operatori a condividere questa è la vecchia infrastruttura, e più il tentativo di espandere la banda crea dei problemi tecnici, e quindi c'è un grande dibattito fino a che punto serva solo la fibra per avere i 100 mega, se bisogna portarla a casa, se bisogna portarla al basement, cioè al piano terreno del palazzo, per così dire, se bisogna portarla all'armadio di Telecom, che è più lontano. Ognuna di queste soluzioni implica naturalmente ordini di grandezza di investimento diverse per miliardi e miliardi, e naturalmente ognuna di queste ha poi delle ricadute in termini di ampiezza di banda e quindi di raggiungimento degli obiettivi. È una sintesi incompleta, imperfetta, ma preferisco che a parlare da due punti di vista siano gli ospiti di oggi, e cominciamo con Stefano Quintarelli. Stefano Quintarelli è stato un pioniere in Italia dell'economia e delle imprese digitali, e che in questa legislatura è anche in Parlamento, è stato eletto una lista di Scelta Civica, ma qui lo abbiamo per tutto quello che conosciamo di lui. Buon pomeriggio e grazie a Stefano Quintarelli. Ciao Oscar, grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, io non mi soffermerei tanto sul giallo, per così dire, del decreto, a meno che tu non voglia dire anche come la pensavi tu sulla bozza del decreto. Mi interessa soprattutto capire come la pensi tu delle linee guida, così come il governo le ha illustrate. Quanto si può immaginare che questi tempi e queste aree di copertura si possano realizzare, e come mai è così diversa la stima delle ricadute private, anche perché in queste linee guida il governo fa ipotesi diverse e arriva anche a ipotizzare che ci siano investimenti privati solo per 1 miliardo. Allora, se uno vede che Telecom Italia da sola ha annunciato un programma pluriennale per 11 miliardi, dice come stanno in piedi insieme queste stime, che ne pensi? Ma allora, intanto devo dire che hai fatto una prolusione perfetta, c'era solo un dettaglio tecnico che non era perfetto, però considerando che tu fai l'economista e faccio il tecnico, direi è stato fantastico. No, cosa penso? Io non ho mai creduto. No, parti dalla correzione, però diamo agli ascoltatori la precisione. No, la correzione è questa, che il rame, col rame riesce a portare velocità anche più alte, però su distanze molto brevi. Esatto, cioè, sì. Il tema è il rapporto tra la distanza e il bit rate, quindi sul chilometro e mezzo, che è la distanza tipica della centrale a casa, riesce a portare delle capacità basse. Sul subloop 150 metri dall'armadio fino in casa riesce a portare delle velocità molto alte, poi una volta che arrivi in casa riesce a portare delle velocità altissime. Certo. Quindi dipende dalla lunghezza. Certo. No? Quindi, però è indubbio che nel momento in cui metto fibra tutti questi limiti me li dimentico, per cui la fibra è proprio l'end game, cioè è quello, una volta che ho messo giù la fibra mi basta cambiare gli apparati agli estremi, man mano che l'elettronica evolve, e moltiplico la capacità. Io francamente non ho mai creduto nella possibilità di un'operazione totalmente dirigistica, sebbene da un punto di vista se io guardo squisitamente solamente all'allocazione degli investimenti, è una misallocazione degli investimenti di raddoppiare infrastrutture fisiche. Questo nasce da un modello di competizione che è nato con la liberalizzazione delle telecomunicazioni, che però è stata fatta quando non c'era ancora internet. Esatto. No? Allora, laddove c'è competizione perché c'era la rete telefonica e la rete televisiva via cavo, si è sviluppata una competizione infrastrutturale molto salubre, che ha portato ad avere reti neutrali e anche con grandi investimenti e prezzi bassi e grandi capacità. No, penso all'Olanda, che è stato un paese guida su questa cosa. Invece lì dove non avevamo reti alternative di televisione via cavo, come in Italia, la competizione infrastrutturale in qualche modo ha frenato gli sviluppi di fatto, per cui alla fine in questi paesi non è che abbiamo grandissimi sviluppi. L'Italia è un po' il fanalino di coda, è il fanalino di coda anche perché noi avevamo una rete in rame che era meglio di quella degli altri partner europei, quindi in qualche modo il rame sopravvive più a lungo, no? Perché la qualità è migliore, perché le distanze sono più brevi, la nostra coda locale cosiddetta è più breve di altri paesi, e quindi abbiamo uno scenario che in qualche modo era molto meglio prima, quindi questa cosa ci sta un po' rallentando. Poi sul fatto dell'utilità del piano, io vi citavo sempre un prima di Einaudi che diceva che il mercato esprime domande e non bisogni, no? E la politica deve andare più in là. Io so che magari su questo ci dividiamo, però se noi guardiamo il confronto, è indubbio che l'economia si sta sempre più dematerializzando e che l'informatica, l'informazione entra sempre di più nella vita dei prodotti. Un mio caro amico ha fatto un'azienda fantastica che fa sistemi di controllo via web per macchine del caffè e da bar, cioè noi dobbiamo entrare nell'idea che l'infosfera ci avvolge tutti. Certo. Noi cominceremo a muovere grandi quantità di dati da una parte all'altra, ci sono dispositivi che hanno capacità sempre maggiori, i nostri telefonini hanno moltiplicato per 16 la risoluzione delle macchine fotografiche, col 4K, la televisione 4K che arriva, e moltiplichiamo di nuovo per 16 l'alta definizione, poi arriverà l'8K. Io quando entro nel mio ufficio di casa ho un monitor, ho una videoconferenza multipunto dove tutti i miei collaboratori sparsi in giro per l'Italia e per il mondo si collegano e ci facciamo video e ci scambiamo applicazioni, grossi file eccetera, e tutto questo deve avvenire velocissimo. Ecco, questa roba tenderà ad essere sempre così, visto che ci vogliono degli anni, non tantissimi per fare, ma l'Europa si è dato questo come strategia e noi siamo indietro, siamo agli ultimi posti, era necessario un piano, insomma. E io lo giudico positivamente, mi sembra che quello che è venuto fuori, al netto di tutte le polemiche che ci sono state, anticipazioni che poi non si sono verificate eccetera, sia un piano che scontenta un po' tutti, scontenta me. Io avrei preferito una scelta sicuramente più incisiva a favore della fibra ottica fino alle abitazioni, perché quello è proprio fatto l'investimento una volta, lo fai per sempre. Che però sai che significa, in parole povere, che sia lo Stato a doversi accollare in qualche modo, cioè mettere mano al portafoglio, perché c'è il problema della rete rame a cui sta appesa l'intera piramide della sostenibilità finanziaria di Telecom Italia, debiti da una parte e valore dei 15 miliardi a bilancio della sua rete rame. Significa questo, tu saresti disposto a farlo? Secondo te varrebbe la pena farlo? No, io dovessi prendere quella decisione, cioè se io... È bello poter criticare, no? Certo, uno è facile, molto facile, sì. Quindi dico, io preferirei che fosse così, poi mi rendo conto che se fossi io a dover decidere non potrei decidere per quella cosa, quindi il piano è un piano molto vario, no? Ci sono dei ti faccio l'esempio, proprio per il ritardo, Fastweb che si trovava da rete pubblica milanese, poi è diventata privata, poi l'hanno presa gli svizzeri di Swisscom e così via, però Fastweb stesso, che era per la fibra e basta, come dici tu, anni fa, di fronte al ritardo, che è un ritardo non solo politico ma anche regolatorio, per così dire, se pensiamo all'enorme conflittualità sulle tariffe di terminazione tra concorrenti, e grazie a quello Fastweb ha dovuto, come dire, e di fronte al fatto che diminuiva la sua capacità di investimento pure la sua, e alla fine oggi la pensa più come Telecom di quanto la pensi Vodafone, che invece voleva la scelta decisa che volevi tu. Cioè il problema diventa: come si fa a prendere una scelta decisa quando gli operatori continuano ciascuno a difendere la propria rete, la propria impostazione e i propri anche specifici tecnici negli apparati di trasmissione, sia quelli a terra sia quelli mobili, perché non dimentichiamo che poi è col mobile che si, copre un bel po' di digital divide. E come si fa a prenderla quella decisione rispetto alle imprese? Si fa una decisione che è una decisione tutta politica, e si prende una decisione. Io credo che la decisione che è stata presa, il piano che è stato fatto, è un piano molto realistico. Favorisce la fibra, favorisce lo sviluppo rapido delle infrastrutture, perché il meccanismo prevede incentivi, come detto, no? I fondi europei vanno veicolati in parte con investimenti nazionali, quindi lo Stato italiano ci metterà del suo, poi ci saranno i fondi europei che potranno quindi essere impiegati. Ricordiamo che gli investimenti nelle reti di telecomunicazioni sono quelli che vengono messi a terra più velocemente, cioè più fare una strada, un'autostrada, una ferrovia ci si mette molto più tempo ed è molto più concentrato, gli investimenti in rete vanno molto più veloci e vanno sparsi dovunque, quindi una parte di fondi nazionali, una parte grossa di fondi comunitari e tutto un insieme di regole e di incentivi anche per la domanda. Vedremo su questi diciamo che bisognerà andare a vedere bene il dettaglio per favorire l'adozione. E poi la divisione, il piano, devo dire, è un piano molto solido. Intanto è una cosa molto bella che abbiamo un piano, perché sì, tu ti ricorderai quando eri a Libero Mercato che io ti scrivevo di queste cose. Erano 7 anni fa, sì. Sì, anche di tu forse. Quindi è bene che finalmente abbiamo un piano, è un piano solido che parte da un'analisi della popolazione, che parte da 94.000 aree, quindi sono... cioè è molto di dettaglio, andando a guardare indicatori di composizione familiare, di reddito, scolarità, cioè, e poi vengono prese delle decisioni sulla base di questo, sulla domanda potenziale, sulla domanda associata agli stimoli. Quindi il modello che c'è sotto è un modello molto solido, si definiscono 4 cluster con diversi livelli di intervento, quelli dove c'è concorrenza e lì sostanzialmente va davanti il mercato, quelli dove c'è dall'altro estremo totale fallimento di mercato e lì necessariamente sarà un investimento pubblico, e poi nelle altre due fasce intermedie sono diversi livelli di supporto all'infrastrutturazione e alla domanda da parte dello Stato, mettendo dei fondi, mettendo gli operatori in concorrenza sulle prestazioni e sul tempo di realizzazione, per cui si privilegia quello che sarà l'obiettivo finale, cioè quello di avere almeno 100 megabit. Ricordiamoci che l'obiettivo è di avere l'85% della copertura, 50% della popolazione utente a 100 megabit, che il piano stesso riconosce come essere una cosa molto challenging, molto sfidante, ok? Quindi non è che ci si fa dei voli pindarici. Comunque questi sono gli obiettivi e questi saranno i parametri sulla quale verranno valutati verranno valutate le proposte da parte degli operatori. Sì, ci sono tre modelli, c'è il caso Blue Sky, che è quello che si dice, mettiamo lì 6 miliardi, ne arrivano altri 6 dagli operatori, c'è il caso pessimo, cioè quello, mettiamo lì 6 miliardi, arriva 1 miliardo di investimenti dagli operatori, e poi c'è il caso intermedio. Beh, insomma, il caso pessimo mi sembra francamente, il worst case che prevede l'86% di intervento pubblico mi sembra francamente realizzabile. Io credo che alla fine ci si attesterà tra quello che è il cosiddetto base case, 60 Stato e 40 privato, e il cosiddetto blue sky, cioè metà pubblico, metà privato. Cioè io credo che alla fine sarà una cifra compresa tra i 10 e gli 11 miliardi. I 10 e gli 11 miliardi. Allora, intanto io ringrazio Stefano Quintarelli e... io sottoscrivo in larga misura quello che ha detto, in realtà. L'unica questione è che per troppi anni abbiamo visto intorno al debito di Telecom Italia privatizzata, e privatizzata male all'inizio, fermarsi tutto, e non è il caso più, sia pur non sottovalutando il problema ancora oggi, di fermarsi per questo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:51, primi nell'ambito della rotazione tra diverse trasmissioni di Radio 24 che in questa settimana trattano di questo tema dell'economia digitale, della digitalizzazione. Stiamo esaminando quello che è successo all'ultimo Consiglio dei Ministri, abbiamo visto il giallo del decreto sparito e le linee guida di questo nuovo progetto, con un'idea diversa da quella del decreto legge, di condividere obiettivi e di spingere diverse imprese di settore a una convergenza, con 6 miliardi di risorse pubbliche, soprattutto europee, una divisione dell'Italia in 4 aree diverse, diverse stime di come i privati risponderanno, e con un obiettivo molto sfidante rispetto al fatto che siamo negli ultimi posti. Ecco, con Stefano Quintarelli abbiamo visto il giudizio positivo, e con un altro ospite, con Massimiliano Trovato e su Bruno Leoni, mi aspetterei soprattutto invece qualche osservazione critica, sia perché è saltato decreto, sia sulla credibilità di questo scenario. Massimiliano Trovato, grazie di essere con noi. Grazie, buonasera. Ma devo dire la verità, io tutto sommato sono meno pessimista di quanto ero a sentire le anticipazioni dei giorni precedenti del Consiglio dei Ministri, nel senso che credo che il piano nel complesso sia molto più equilibrato e molto più realistico di quanto era non solo la versione originaria di novembre, ma soprattutto di quanto erano appunto le previsioni degli ultimi giorni. Il fatto che sia saltato il decreto per come era impostato il decreto mi pare tutto sommato positivo. Credo che già il fatto che il governo abbia realizzato che l'obiettivo dell'85% della copertura a 100 mega nel 2020 fosse sostanzialmente irrealizzabile sia un punto di merito, e credo che sia un punto di merito l'aver capito che non si può fare il dirigismo se non ci sono i quattrini per farlo. Cioè, un conto è dire facciamo come hanno fatto in Corea o in Giappone, ci mettiamo una paccata di soldi pubblici e portiamo la fibra ovunque. Un altro conto è dire vogliamo la fibra ovunque, però i soldi ce li devono mettere gli operatori privati. Certo, e magari quando poi c'hai la rete in rame è un po' complicato spiegargli che a quel punto con i tuoi soldi butti via la rete a cui è appeso il tuo EBITDA. Sentiamo Fulvio da Napoli come la pensa. Fulvio, prego. Buonasera Giannino, Buonasera. Sento di sentirla tutto intero. Eccoci. Vista la giornata, sento un po', no, la questione che io vedevo è questa: io ho lavorato per quasi 20 anni nel settore delle comunicazioni aziendali, eccetera. Quando diciamo mettere una rete in rame a 10 megabit era uno di quei lussi. Il problema è questo: la rete che ovviamente di cui si parla non è una cosa fine a se stessa, è una cosa che deve servire alle aziende. La domanda banale è: ma le aziende sono realmente pronte? Mi riferisco in particolare all'infrastruttura di rete della singola azienda, alla velocità dei processori che sono sulla rete. E la risposta la sappiamo già, è no. La risposta è no. E allora a questo punto dovremmo fare, bisognerebbe che qualcuno facesse un passaggio anche su questa cosa, perché altrimenti se lei porta la fibra, come è successo a casa mia, dove abbiamo portato la fibra, l'investimento non si ripaga, per così dire. A un certo punto dice sì, ma va più veloce. Sì, un pochino, però e questa è la domanda che giro immediatamente a Massimiliano Trovato. Questo tema, che è un tema fortissimo da parte delle imprese, cioè la domanda in realtà non c'è per tutta questa capacità di banda da stendere che costa molto. Come si risponde a questa domanda, Trovato? Ma è un classico problema dell'uovo e della gallina, no? C'è da dire che oltre al piano per la banda larga il governo ha approvato un altro piano, che è quello dedicato più in generale alla crescita dei servizi digitali, cioè a un incentivo. E quindi con questo tenteremo di stimolarlo. È finito il tempo, mi devo scusarmi come se mi hanno trovato, e con Antonio da Messina che lo abbiamo mandato in onda. Continuate con Radio 24.